Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza è la Rosciani, che è il virus, mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. L'emergenza da coronavirus ci fa sperimentare le tecniche più ardite di sopravvivenza, pure quella di andare in onda senza scaletta con un conduttore che arriva sulla sigla del programma, quando invece aveva detto che non ci sarebbe stato. E di chi sto parlando? Di me, cara Debora, buongiorno, come stai? Ben trovata. Io sto bene, avevo studiato a menadito la scaletta di oggi sapendo che tu non c'eri e invece adesso Marco Lombardo prontamente va a stampare tutto il materiale di questa mattina. I due argomenti principali li conosci, però non sai che cosa ho messo nel giornale radio del risparmio. Ma sarà tutta una sorpresa, sarà bello ascoltarti. Guarda, pensavo di sentirti dall'automobile, invece devo dire, ohimè, dirò un'ovvietà oramai in questi giorni, c'era meno traffico di quello che pensavo. Io sono quindi particolarmente contenta di vederti perché ormai ci siamo abituati a questo duetto in onda e quindi quando siamo da soli, per la verità, non siamo più abituati. Intanto ti racconto la notizia frufru che avevamo preparato per partire questa Sentiamo mattina. Sentiamo un po' te che cosa avevate escogitato. Questa mattina, per la verità, ci hanno scherzato su un po' anche Simone Spezia con Paolo Mieli. Allora, ci sono delle grandi novità per chi è in cerca di una vacanza a 5 stelle. Ammettendo di aver voglia di fare qualche progetto in questo periodo. Anzi, io inviterei proprio gli ascoltatori a cercare di sdrammatizzare questa terribile situazione facendo proprio dei progetti per i prossimi mesi. Magari poi non li potremo attuare, però sognare non costa nulla. Allora, ti inviterei, Mauro, magari prossimamente, quando potremo organizzare una vacanza, ad andare ad Edimburgo, dove la regina Elisabetta ha deciso di affittare i suoi appartamenti più storici, che sono situati proprio lì in Scozia, e pare che sul sito di Airbnb sia già possibile prenotare un soggiorno. Sto parlando degli Abbey Strand Apartments at Alley Road. Sono ufficialmente aperti al pubblico e sono delle strutture che sono state ristrutturate, per l'appunto, negli ultimi 2 anni. Se ne sarebbe occupato direttamente il principe Carlo di questa ristrutturazione molto onerosa. Questo è un luogo di grande interesse architettonico e questi appartamenti sono posizionati in una fra le zone più antiche di Edimburgo ed è un grande orgoglio per la regina Elisabetta che in tempi in cui anche la corona deve ottimizzare i costi decide di lanciarsi in questo business apparentemente molto redditizio, quindi mette questi appartamenti su Airbnb. Ho voluto aprire con questa notizia perché stavamo riflettendo proprio con Marco Lombardo questa mattina su tutte quelle persone che negli ultimi mesi, magari proprio invogliati da questo business che sta funzionando molto bene, avevano ristrutturato abitazioni per cercare di così farsi un po' un reddito d'appoggio, no? Rispetto a quello abituale, e con questo turismo, con questi movimenti completamente congelati in questo momento, diciamo che ecco anche Airbnb, che è stata la grande novità degli ultimi anni, sta soffrendo le guerre. Come si le dice. Conseguenze appunto del coronavirus. Comunque aprendo la scaletta che alcuni appartamenti risalgono addirittura al 1490, però speriamo la corona possa garantire che nel frattempo sono stati tenuti in ordine e spolverati come si conviene, insomma, altrimenti esatto, ma ha ristrutturato il principe Carlo e tu lo sai che è un grande appassionato d'arte, avrà fatto un lavoro assolutamente interessante. No, peraltro leggo anche fra le varie curiosità che questi palazzi in tempi medievali sarebbero stati un rifugio per i poveri e anche un ospedale. E di questi tempi ci fa anche piacere che ci sia la zona pronto soccorso in questa struttura. Prendiamocela a ridere, Marco. Mauro, che dobbiamo fare? Sì, cerchiamo di, come dire, alleggerire con la nostra abituale autorevole leggerezza, che non significa appunto che sottovalutiamo quanto sta succedendo o non abbiamo percezione di quello che accade, ma appunto ogni tanto si tratta anche di strappare un sorriso se si può. Oggi, peraltro, prima io citavo il traffico, appunto, che è minore di quanto mi sarei aspettato, perché dobbiamo parlare dei seggiolini. Evidentemente sono tutti andati a cercare il seggiolino antiabbandono, perché da oggi ci sono le sanzioni. Esatto, da oggi entra in vigore, peraltro proprio stamattina è arrivato un comunicato stampa fresco da parte della Polizia di Stato che abbiamo stampato. Da oggi entra in vigore per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni l'obbligo del cosiddetto dispositivo antiabbandono, ma soprattutto da oggi per chi viene pizzicato senza viene multato, viene sanzionato pesantemente, per cui fate attenzione. Allora, siccome peraltro anche questo obbligo è stato incentivato da un bonus che è stato erogato dal governo, faremo un punto stamattina anche su quanti bonus sono già stati richiesti, perché il nostro Maurizio Caprino arriverà con dati alla mano assolutamente freschi. E chi se non Maurizio Caprino poteva accompagnarci? Peraltro ci faremo accompagnare da Maurizio Caprino anche per quanto riguarda, insomma, l'altro tema che vogliamo affrontare è quello dei viaggi, rimborsi. Sì. Ci sono ulteriori novità per chi ha dovuto cancellare la sua prenotazione, le racconteremo, le affronteremo, ne abbiamo già parlato, ma sì. Continua ad essere uno dei temi più richiesti anche da parte vostra, dai vostri messaggi, dalle vostre telefonate. Posso dare a questo proposito gli abituali numeri, Deborah? Ma io, visto che sei arrivata, non penserei mica di non far nulla e di fare una puntata così in libertà. Certo, allora, che ti devi impegnare. Giustifico la mia presenza ricordandovi i numeri ai quali potete raggiungerci: 800240024 per il numero verde per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 se volete mandarci messaggi con SMS o magari anche via WhatsApp. Vi ricordiamo che abbiamo anche una nostra bella casella di posta elettronica, 2 di denari, scritto tutto con le lettere, 2 di denari, @radio24.it. Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Perché la domenica mi lasci sempre sola. È altro che viaggi annullati, cancellazioni, prenotazioni rinviate. Qua il grande dramma di molti italiani è quello di non poter andare a vedere la partita, non solo questa settimana, ma chissà quanto durerà anche questa astinenza da calcio in diretta, caro Mauro. E allora anche tutti gli abbonati che hanno speso fior di quattrini. Io lo so che questi temi, magari affrontarli in questi momenti in cui siamo preoccupati per ben altro, possono sembrare secondari, ma magari chi ha come hobby solo quello dello sport e ci spende tanti soldi, è chiaro che in questo periodo gli scoccia anche un po' perdere questo denaro, no? Investito in questo suo passatempo, in questa sua passione. Allora, che succede qui? Dunque, noi sappiamo che si gioca, per adesso si gioca a porte chiuse, cioè non ci sarà l'ingresso del pubblico, però come ha giustamente già ricordato Deborah, e chi ha già il biglietto e chi aveva già l'abbonamento, peraltro ci sono gli abbonamenti che non sono proprio cosa di poco momento. Guarda, ti ricordi cosa ti ho raccontato quando cercavi i biglietti da regalare a mio nipote, che mi è venuto lo scompenso cardiaco solo a monitorare su internet. Però quella lì era anche una squadra di Torino, non era questo se l'argomento. Non andava tuo nipote, non importa, è anche un ragazzino. Guarda che ti rispedisco da dove bene. Sei arrivato stamattina. Allora, che succede? Succede che adesso il Movimento Consumatori dice qui clausola o non clausola, perché in effetti alcune squadre anche di Serie A hanno questa clausola: se la partita viene annullata per le cause più varie, noi non rimborsiamo il costo della partita che non avete potuto vedere. Ecco, dice il Movimento Consumatori, e no, qui cari signori, care società di pallone, del pallone, dovete rimborsare immediatamente i tifosi. Che come andrà a finire non lo sappiamo, perché dal punto di vista del codice del consumo effettivamente sembrerebbero esserci gli estremi per il rimborso del prezzo del biglietto acquistato o del rateo dell'abbonamento, così come afferma il Movimento Consumatori, perché secondo il loro giudizio, il giudizio dei loro legali Paolo Fiori e Marco Gagliardi, con le clausole che escludono il rimborso sono nulle e quindi sono vessatorie, perché sono vessatorie in contrasto con la normativa di tutela del consumo. Vedremo come andrà a finire, è un altro dei tanti effetti di questo momento da coronavirus. Adesso te ne racconto anche un altro. C'è un ascoltatore però che mi provoca, mi prende in giro, mi dice: dottoressa Rosciani, perché non ci racconta l'uscita della sua squadra del cuore dal Fuzzi MIB? È vero, c'è la revisione del paniere a Piazza Affari, il 23 marzo esce Juventus, entra Banca Mediolanum, rientra. Ma esce nel senso che poi se ne vanno? No, esce solo da... Troverà il modo di rubare per rientrare anche nelle principali paniere della borsa italiana. Dai, non l'avrei mai detto. Ma l'hai pensata, perché ho visto il tuo ghigno malefico, vabbè. Ho pensato di peggio. Dai, allora, smettiamola, va. Tema babysitter. Tema babysitter. Con le scuole chiuse in tutta Italia ci aspettiamo un'impennata delle richieste per personale addetto alla cura e sorveglianza dei bambini. Ma attenzione, perché quello della babysitter non è un lavoro informale, anche se per poche ore al giorno è necessario contrattualizzare la lavoratrice. È un'altra richiesta questa di Assin.colf, l'Associazione Nazionale Sindacale dei Datori di Lavoro Domestico, che abbiamo già ospitato nei giorni scorsi, perché l'associazione ha anche in questo caso fatto delle richieste precise al governo, chiaramente lamentando il fatto di che tipo di emergenza si sta determinando all'interno di molte famiglie che in questo periodo devono rinunciare al collaboratore familiare o alla badante per persone anziane, perché magari sono persone che vengono dalle zone rosse e contagiate, o perché magari l'anziano sta in queste zone e quindi il collaboratore familiare non li può raggiungere. Per cui anche questo settore chiede un'attenzione speciale da parte del governo, e adesso si fa carico anche di stimolare l'attenzione adatta sulla babysitter. E molte richieste ci saranno nelle prossime settimane, se le scuole continuano ad essere chiuse, l'attività didattica continuerà ad essere sospesa e molte famiglie non sapranno come fare. Noi faremo una trasmissione apposita su questo mercoledì nella puntata del lavoro. Tata cerca, sì, direi che potremo fare, Mauro. Sì, anche perché adesso non ne abbiamo parlato per un po' di mesi, ma ricorderete che ci sono tutti degli obblighi anche contributivi, anche di segnalazione dell'impiego della babysitter, che quindi sarebbe il caso poi di riepilogare. La butto lì, ma per carità non voglio sostituirmi al ministro, sarebbe forse il caso di semplificare questi obblighi vista la condizione in cui ci troviamo, sì. Non lo so, veda il legislatore, veda l'esecutivo. Mettersi una mano sulla coscienza. Esatto, e una magari anche al portafoglio, perché come è stato ricordato anche questa mattina è complicato anche dover affrontare questo tipo di spese, se poi ci si aggiunge il fatto che per molti di noi c'è una riduzione degli introiti, tutti quelli che hanno lavori ad esempio autonomi o lavorano nel turismo e nella ristorazione sono fortemente esposti agli effetti economici del coronavirus. A tal proposito, l'istant coronavirus lo troviamo ancora in circolazione? Ma certamente lo puoi trovare ancora in edicola, l'instant che il Sole 24 Ore ha prodotto, un centinaio di paginette in vendita con il quotidiano nelle edicole. Se proprio fai fatica a trovarlo in edicola, guarda, c'è anche una versione ebook, la trovi sul sito di e-commerce del Sole 24 Ore, un sito che si chiama Shopping 24. Naturalmente anche sugli altri store digitali come Amazon, così faccio un po' di pubblicità anche per Amazon e non la devi far tu, che dopo invece me la rubi sempre questa cosa pubblicità ad Amazon. Sì, lo so che sei, vedi, in questo, mentre io faccio il domandone cattivo il giovedì, qua sei tu che, mi provoca sempre su Amazon, e poi invece di fronte agli ascoltatori sembra che sono sempre io quella così un po' maliziosa. Senti, ammortizzatori sociali ai tempi del coronavirus, e ieri abbiamo interpellato il nostro consulente del lavoro Enzo De Fusco, che ci ha spiegato come funzionerà alla luce dei provvedimenti di emergenza presi nelle ultime giornate nelle cosiddette zone rosse. Oggi che cosa abbiamo in agenda? Oggi abbiamo le cosiddette zone gialle, quindi stiamo parlando delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, stiamo parlando di zone limitrofe alle zone dichiarate rosse. Ovviamente facciamo sempre riferimento ai provvedimenti in vigore. Sui giornali di questi giorni, alla radio, a Radio 24, avete potuto ascoltare che si preparano ulteriori provvedimenti, ma dobbiamo stare a normativa vigente. Quindi il nostro ultimo riferimento, lo dico anche per verificare, è il decreto legge numero 9 del 2 marzo. Lì è l'ultimo riferimento per quanto riguarda questi sostegni economici che ci vengono illustrati per le zone cosiddette gialle dal nostro esperto di valore mondiale, Enzo De Fusco. Ci sono anche in questo caso le tutele, sono tutele più attenuate rispetto alla zona rossa. Vediamo sempre la distinzione, bisogna sempre capire se l'azienda ha già coperture con la cassa integrazione oppure no. Se è priva di queste coperture, allora potrà chiedere una cassa integrazione in deroga, la durata è al massimo di un mese, almeno al momento, e può avere anche un effetto retroattivo. operativo. Qui c'è bisogno, purtroppo, ecco, questa è una parte burocratica inutile, c'è bisogno di un accordo sindacale e poi bisognerà attivare una procedura con la regione. Chi invece ha già copertura CIGO, CIGS o FIS, quindi il fondo integrativo salariale, purtroppo non c'è una regola speciale, deve attivare gli ordinari ammortizzatori, ma questi hanno una serie di vincoli, quello di fare una procedura di 25 giorni, quello che non può essere retroattivo, e quindi ci sono effetti penalizzanti per queste imprese nonostante subiscano notevolmente il coronavirus. Tante categorie professionali ci stanno scrivendo, è veramente un problema quello che viviamo in questa fase che ci riguarda tutti, ne siamo perfettamente consapevoli e compatibilmente con gli spazi che abbiamo cercheremo di dare la voce a tutti quanti. Intanto abbiamo già raccontato negli ultimi giorni delle iniziative che sta intraprendendo individualmente e spontaneamente il settore bancario per sostenere le aziende in questa fase difficilissima. L'ultima in ordine di tempo di iniziativa arriva dal gruppo BNL BNP Paribas, che per contrastare le difficoltà economiche e finanziarie conseguenti a questa emergenza da coronavirus si è attivata con una serie di iniziative a favore delle imprese su tutto il territorio nazionale. Qua non si fa distinzione fra zone rossa, gialla e territorio nazionale, quindi per tutte quelle aziende che si trovano in questa momentanea carenza di liquidità c'è la possibilità di sospendere per 6 mesi il pagamento dei finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento, e poi ci sono delle iniziative dedicate anche da parte di Artigiancassa, che lancia un servizio di consulenza a distanza per gli imprenditori del settore. Allora Debora, come giustamente ricordavi, gli effetti di questo stop, di questa un po' messa quasi tra parentesi di tutta Italia ormai, si fanno sentire a tutti i livelli. Ad esempio, senti che cosa ci ha raccontato un'ascoltatrice al nostro Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Volevo chiedere, visto che mia moglie lavora in un asilo come ausiliaria, chiudendo l'asilo mia moglie non è potuta andare a lavorare per la questione coronavirus, ma le giornate che è stata ferma gli verranno pagate o le perderà? Come funziona? E sul nido privato, chiede Giovanni, abbiamo pagato già a febbraio e marzo senza poter portare il bambino, che fare? Allora, lo diciamo a tutti, sono decine e decine le domande che ci arrivano su queste situazioni. Anche le organizzazioni di categoria non sanno come fare, perché se restituiscono le rette già pagate vanno in default le strutture, che quindi non potranno garantire i propri servizi quando riprenderà regolarmente l'attività. Devono pagare regolarmente gli stipendi, quindi che fanno? Rinunciano alle rette e non pagano il personale? E qua sono situazioni nuove quelle che stiamo vivendo, quindi, come dire, Mauro prima diceva, speriamo che il ministero competente su questo ambito si sensibilizzi in maniera particolare con semplificazioni. Mauro, come dicevi prima, per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo delle babysitter, ma c'è anche un altro aspetto, anche i giorni forzatamente perduti bisognerebbe capire come li dobbiamo precisamente rubricare, e sul punto avremo anche dei contributi sempre in questi giorni da parte degli esperti, dei consulenti del lavoro che continuiamo a interpellare. Cerchiamo anche di darvi delle informazioni il più possibile precise, perché è anche abbastanza inutile, diciamo, dover rispondere non lo sappiamo ancora, attendiamo istruzioni, ma è per molti aspetti, per molte domande che ci fate, purtroppo la condizione in cui ci troviamo, non siamo in grado di fornire una risposta puntuale e chiarificatrice. Però insomma tutte le novità che arriveranno progressivamente ve le racconteremo in diretta con la massima chiarezza possibile. Oggi intanto è tempo di occuparsi, di ritornare sulla questione dei seggiolini antiabbandono. Allora, le sanzioni per chi non utilizza il sistema antiabbandono dei bambini in auto partono da oggi, una vicenda che aveva fatto un gran parlare di sé qualche mese fa, quando improvvisamente ci eravamo resi conto che si rendeva obbligatoria, no? Questo utilizzo, l'installazione, adesso non mi viene neanche in mente il verbo corretto che va utilizzato, una misura che era accompagnata anche dalla riconoscimento di un bonus per chi compra questo dispositivo. E a che punto siamo? A chi lo chiediamo, caro Mauro? Ma a chi possiamo chiedere una cosa del genere? Qualsiasi cosa riguardi i veicoli che si muovono in Italia di qualsiasi genere, specie e natura, non va che posta a Maurizio Caprino, smart worker, e per questo motivo l'abbiamo interpellato a distanza. Buongiorno Maurizio, come va? Eccoci qui, diciamo smart working va meglio, posso testimoniarlo. Molto bene, mi raccomando, con la produttività facciamola salire, questo lo dico anche come collega qui al Sole 24 Ore. Poi scriverà lui un codice della strada autonomamente. Già che sei a casa potresti rivalutare un po', così riscrivere qualche articolo poco chiaro. Allora, che succede? Da oggi sanzioni, se il bambino fino ai 4 anni si viaggia senza questi dispositivi antiabbandono, che vanno collegati al seggiolino, c'è la multa, detto proprio così brutalmente, da 81 a 326 euro. E poi c'era però anche il bonus. Riepilogo, sì. Maurizio? Sì, allora confermo che le sanzioni sono in vigore, ritengo che comunque non ci sarà una gran vigilanza, perché onestamente, soprattutto in questo periodo, in questo momento, le attenzioni sono su tutt'altro, purtroppo. Comunque la sanzione formalmente è in vigore, è in corso ancora a tutt'oggi l'erogazione del bonus. Sono 30 euro che si possono richiedere in un portale, su un portale appositamente messo su dal Ministero delle Infrastrutture. Il problema è che per poter entrare in questo portale e ordinare, prenotare il proprio bonus, occorre farsi l'identità digitale, la cosiddetta SPID, e quindi è oggettivamente una complicazione che poi per 30 euro molti, credo, non soprassederanno, e le statistiche oggettivamente sembrano dire proprio questo, cioè un po' fra questo, un po' l'effetto coronavirus, sta di fatto che attualmente risultano erogati appena 4 milioni rispetto ai 20 milioni e mezzo che sono disponibili per quest'anno. Il dato ci è stato fornito dal Ministero delle Infrastrutture, è relativo all'altro ieri. Sono circa 135 mila i fruitori che si sono prenotati, c'è spazio per oltre 600 mila, per cui insomma non c'è il problema che tutti temevano, cioè di un esaurimento repentino dei fondi. Allora intanto io ne approfitto, Maurizio, per dare questo riferimento su internet. Il sito è bonuseggiolino, non è che lo sto dicendo male, è proprio scritto così come ve lo dico, una S sola, bonuseggiolino.it, lì trovate appunto tutti i riferimenti per questo piccolo aiuto che lo Stato mette a disposizione per l'installazione dei dispositivi antiabbandono. Maurizio, ti chiedo un po' di pazienza perché adesso Deborah ci deve aggiornare, e dico ohimè perché vedo che i dati... Possiamo soprassedere? No, Deborah, ci tocca. Dici come stanno andando le borse. Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare. Due di denari. Ma guardate, parlo da privato che sta cercando una casa in affitto a Milano e i prezzi, per colpa di quelli che vogliono dare le case ai famosi turisti fai da te, che distruggono le zone del centro perché non ci abita più nessuno, non spendono una lira in città e hanno distrutto il prezzo degli affitti, la gente non sa più come fare per andare a abitare in zone decenti perché i prezzi sono mostruosi, le poche case rimaste. Uno, gli sta bene, così imparano a fare gli affaristi su qualsiasi cosa. Due, spero che il governo, adesso c'è questa cosa del corona, ma poi metta mano alla normativa, perché non è più possibile abitare nei centri storici, perché ormai è tutto soltanto Airbnb, non c'è più una casa in affitto. Beh, Milano viaggia un po' a sé rispetto al resto d'Italia, capisco l'ascoltatore, però adesso andare a abitare, non so dove vorrebbe andare ad abitare, in Monte Napoleone a prezzi accessibili. No, però sai, questo problema qui è emerso anche in altre città che non sono Milano, dove c'è infatti un forte afflusso turistico. Milano è un conto, diciamo. E dove effettivamente si lamentava questo utilizzo massiccio dell'affitto via Airbnb, insomma, cosiddetti affitti brevi, che però fa lievitare i prezzi anche su pari su tutti gli altri, le altre modalità di affitto. Esatto, e poi si arrabbiano anche gli albergatori di queste località, perché dicono comunque il settore non è regolamentato nella stessa maniera, ci sono figli e figliastri, quindi quantomeno l'auspicio per molte settimane è stato quello di una regolamentazione simile. Torniamo al nostro argomento, ma le spugnette dei microfoni le sostituite per ogni conduttore, chiede un ascoltatore. In questi giorni abbiamo intensificato anche il ricambio, quindi tranquillizzo anche gli amici che ci seguono da casa, che siamo sotto stretta tutela anche noi, sanitaria. Siamo disinfettati dalla testa ai piedi, veramente. Maurizio Caprino, solo per restare ancora un attimo sulla vicenda del seggiolino, perché poi ampliamo il discorso alle questioni più complessive dei viaggi. Maurizio, tu dicevi prima difficile che ci sia un controllo, ma sciaguratamente, se uno dovesse incappare in un controllo e non è in regola con questo dispositivo, che deve fare? Gli lasciano, fanno lasciare lì la vettura compresa di minore trasportato? No, sostanzialmente si perdono soltanto 5 punti della patente. Tu hai detto giustamente che poi c'è una sanzione di 81 euro che poi se si paga entro 5 giorni finisce ad appena 56 euro. C'è una sospensione della patente soltanto per i recidivi, una sospensione patente che va da 15 giorni a 2 mesi soltanto se si viene peccati per la seconda volta nell'arco di 2 anni. Però è un problema anche fare il controllo, perché insomma andate davanti a un asilo, andate davanti a un asilo, fate mente locale quante volte negli ultimi 30 anni avete visto forze dell'ordine davanti a un asilo, anche solo a vedere se viene utilizzato, o se i nonni o anche i genitori purtroppo che vanno a prendere i bambini all'asilo hanno il seggiolino. Quindi oggettivamente l'esperienza autorizza a pensare che oggettivamente i controlli saranno pochi, ma al di là della sanzione, io lo ripeto sempre, la vera sanzione è l'incidente. In questo caso l'incidente è quello di lasciare e abbandonare ovviamente involontariamente il bambino nell'abitacolo, perché abbiamo, può capitare a tutti, un momento di blackout, succede assolutamente poco spesso, ma quando succede c'è un gran clamore e sono dolori, e allora a quel punto il seggiolino antiabbandono, attenzione, è un grande aiuto, però non risolve tutto. Non dobbiamo delegare al dispositivo di allarme, anche perché banalmente se l'allarme viene dato ma il nostro cellulare e i cellulari delle altre persone che noi abbiamo lasciato al sistema non sono coperti da campo, oppure hanno la batteria scarica, oppure succede che vengono lasciati in una borsa e squillano a vuoto, la tecnologia non può supplire a tutto. Quindi per esempio occorre per buona abitudine avere dei sistemi alternativi per ricordarsi, tipo cambiarsi un anello di dito per darsi conferma che una cosa si è fatta o meno. Il famoso nodo al fazzoletto in versione riveduta e corretta. Un'allerta al cellulare, che è quello a cui siamo più abituati, magari forse certo, quello è meglio. Il problema appunto, diciamo Maurizio, se poi il cellulare... Vabbè, diciamo che Maurizio, allora ti vorrei anche presentare l'altro esperto che abbiamo convocato per ampliare il discorso insieme a te e con lui sulla questione dei viaggi più in generale. Stiamo parlando appunto di seggiolini per la novità di quest'oggi, ma il momento è delicato anche per quanto riguarda i viaggi, specialmente per chi aveva già i biglietti, perché sta cercando, si vede costretto spesso ad annullarli, e ci sono ovviamente tante difficoltà sui rimborsi, difficoltà dovute questa volta, mi pare, Deborah, non tanto a questioni di poca chiarezza normativa, no, quanto ma proprio a intasamenti dei call center, dei siti, delle compagnie aeree, di tutte quelle società a cui ci siamo rivolti per il nostro viaggio, per lavoro, per piacere naturalmente. Ma voi immaginate in questo momento quante migliaia di persone stanno facendo la stessa richiesta, una richiesta per ottenere un rimborso che può andare da 50 euro quanto da qualche migliaio di euro, per cui tutti naturalmente abbiamo diritto di vederci restituire quello che abbiamo speso, che non potremo consumare. Io però stamattina inviterei anche ad avere un po' di buonsenso. Se il call center in questione non ci risponde subito, non ci accontenta immediatamente, immaginiamo anche quale inferno stiano vivendo queste persone in questa fase. Peraltro, Mauro, volevo anche raccontarti che ieri, per esempio, Trenitalia ha fatto sapere di voler prorogare i tempi per le richieste di rimborso per viaggi che non saranno effettuati anche per i biglietti acquistati dopo il 23 febbraio, perché una prima tranche di rimborsi era stata prevista per chi aveva prenotato viaggi in una data antecedente a questa. E quindi andate sul sito di Trenitalia, perché appunto si è ampliata la rosa delle persone a cui può essere riconosciuto il rimborso, che avviene però sempre attraverso il riconoscimento di un bonus. E allora, per fare un viaggio, quindi guarda, non c'è mai niente di contante. Guarda Deborah, queste tue precisazioni mi offrono il destro per introdurre e presentare ai nostri ascoltatori Carmelo Calì, l'avvocato legale della Conf Consumatori. Buongiorno avvocato Calì. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, dicevo prima, non è tanto una questione normativa, perché più o meno, le leggi non è che possono proprio prevedere tutte le situazioni, però le leggi a tutela di chi ha acquistato il biglietto di viaggio e non può andare, o non può andare nella destinazione, non può raggiungerla perché poi non lo fanno neanche sbarcare, mi pare che siano chiare. Si ha diritto al rimborso, io la dico brutalmente, lei la dica meglio, visto che è più esperto di me. Sì, diciamo che le previsioni normative ci sono, come diceva lei. Quello che purtroppo manca è la disponibilità da parte di chi dovrebbe rimborsare i passeggeri o i turisti, o riconoscere a passeggeri e turisti i propri diritti. Ecco, in questo momento dobbiamo registrare che la questione è proprio questa, di questo tipo di difficoltà, perché molte volte il passeggero, appunto, che chiama call center eccetera, riceve anche delle risposte che sono totalmente infondate. Quindi il consiglio che noi diamo come prima cosa è certamente tentare un primo contatto telefonico, può essere buono, ma la cosa da fare immediatamente è quella di scrivere, rappresentare la propria situazione e chiedere appunto quello che è in base alle varie discipline. Certamente se ci si trova di fronte a un pacchetto turistico, invocare le norme del pacchetto turistico e quindi il codice del turismo; se si tratta di altri tipi di servizi, quale l'acquisto singolo di un servizio di trasporto aereo, ferroviario eccetera, invocare le norme che ci sono a tutela di questo singolo servizio. Avvocato Calì, sì, no, adesso tra l'altro abbiamo il traffico, c'è anche il momento poetico di Mauro, però una precisazione volevo farla per capire se può essere già data un'indicazione utile in questo senso. Molti ascoltatori, come al solito, dicono vabbè, per chi vuole organizzare i propri viaggi con il fai da te gli sta bene che poi non riesce a riottenere niente. Se ci si rivolgesse alle agenzie di viaggio avrebbero la tutela piena di tutto. Io faccio difficoltà ad immaginare che in questo momento, anche se abbiamo organizzato completamente con un tour operator molto organizzato appunto un viaggio, immediatamente siano disposti a restituirci tutto quello che abbiamo già versato se il viaggio non potrà essere fatto. Avvocato Calì. Sì, esatto. Allora, innanzitutto diciamo la differenza nell'acquisto dei servizi non c'entra nulla, perché vi sono le tutele sia per l'acquisto turistico del pacchetto sia per l'acquisto del singolo servizio. Certamente nell'acquisto del pacchetto turistico il turista ha rimborsato tutto quello che era messo all'interno del pacchetto, quindi il trasporto, il soggiorno eccetera. Quindi sono delle questioni che poi sono interne tra il tour operator e gli erogatori dei singoli servizi. Quindi in questo caso il turista ha un solo interlocutore, certo, che è l'agenzia di viaggio e il tour operator, e poi questi se la diciamo vedono con chi perché si devono fare l'impostare. Diciamo anche questa è una previsione normativa e quindi avrebbe meno difficoltà. Sicuramente. Se ha acquistato i singoli servizi, certamente deve inseguire tra virgolette ogni singolo soggetto che gli ha venduto il singolo servizio, ma questo non significa che diciamo non possa ottenerlo. Ecco, se noi dobbiamo dare un giudizio, abbiamo trovato chiusure sia da parte degli uni che degli altri. Ci auguriamo che le cose siano meglio, ma la differenza non è nel tipo di acquisto da parte del consumatore, continui ad acquistare quello che ritiene più opportuno e più conveniente in base a quelle che sono le proprie esigenze. L'agente di viaggio in questione ci sta scrivendo: io ho rimborsato centinaia di biglietti per il viaggio, se c'è sconsiglio viene dato un buono del valore totale del pacchetto da usufruire nei successivi 12 mesi. Teniamo qualcosa di leggero, abituale, sì. No, non so se leggero o meno, ma almeno abituale. Il momento poetico del venerdì, siete tutti invitati a partecipare, lo ha fatto per la seconda volta Romolo Scudiero, che ci scrive da Giffoni Sei Casali, si precisa anche di essere un pensionato. E già aveva trasmesso un sonetto il 4 novembre, ne avevamo poi data lettura il 15 novembre, ora ci manda una poesia per che diciamo cerca di cogliere il momento, ohimè, del coronavirus e della sua, come scrive, influenza sull'economia. Testardo ancor m'accingo a declamare diversi altri versi dall'alternata rima, con in mente i soldi che mi fan campare e che spero mi rendano autonomo come prima. Ma c'è quel virus che si spande maledetto e fa parlare di sé in ogni trasmissione. Persin Due di Denari sta cambiando assetto, perché influenza l'economia, non è un'opinione. Quindi solitario a vagar m'accingo, e sconsolato per svago mi soffermo ad ogni cartellon stradale, miro a questo o a quel prodotto che è propagandato, sognando d'acquistar senza rischi qualcosa d'uguale. Uno in particolar m'ha fatto effetto: i rischi del virus riportati su un grafico. Mentre leggevo, un colpo ho inteso al petto, che angoscia, che spavento, ma è stato invece il traffico. Due di denari. Costa 25 euro farsi lo speed e te ne danno 30. Allora, adesso commenteremo questo commento dell'ascoltatore, ma voglio darti un'anteprima mondiale, Mauro. Caspita, sono tutto orecchi. Allora, ammettendo che il 7 agosto saremo, speriamo, tutti tranquilli in vacanza, auspicando che quello che stiamo vivendo in questi giorni sia un ricordo, magari non lontano, ma che sia già un ricordo, allora ci sarà la prima estrazione della lotteria degli scontrini il 7 agosto. Lo sta facendo sapere proprio in questi minuti l'Agenzia delle Entrate. Dal 1 luglio tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare con un acquisto a partire da un euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del portale lotteria, che sarà disponibile dalle ore 12 del 9 marzo secondo le istruzioni dell'agenzia. Seguiremo questa faccenda dal 9 marzo, siamo già lì. Allora lunedì. Guarda, riepilogo, dal 9 marzo tutti sul portale che sarà attivato dall'Agenzia delle Entrate, esatto, per ottenere il proprio codice lotteria, perché non si può giocare col codice fiscale, bisogna, l'ha detto il garante della privacy, avere un codice lotteria che visto è un che altro. Lunedì non ci avremo un bel niente da fare perché l'Italia sarà ancora congelata. E allora andiamo tutti sul sito e facciamoci dare il codice lotteria, così poi dal primo luglio giochiamo alla lotteria degli scontrini. È la prima estrazione il 7 agosto. Va bene, allora. L'avvocato Calì, lei non so, giocherà la lotteria degli scontrini? Forse avrà altri problemi di qui al primo luglio. Corf Consumatori peraltro ad agosto attiva sempre questo grande sportello, no? Dov'è che l'ha fatta? Catania? Sì, Catania, poi diamo assistenza su tutto il territorio nazionale. SOS Consumatori per tutti coloro che viaggiano, lo sportello consumatori per tutti coloro che viaggiando si trovano a vivere qualche disavventura. Quale disavventura con i viaggi? Sono partite con largo anticipo quest'anno. Vabbè. Allora, intanto altri ascoltatori ci raccontano, per esempio un amico ci scriveva all'inizio del programma quando l'abbiamo lanciata, ci raccontava che ha già fatto la richiesta di un rimborso con Ryanair. Eccolo qua, mi ha comunicato la compagnia la cancellazione del volo da me prenotato, ho chiesto il rimborso sul sito dopo l'accesso appunto al loro sito web, una volta eseguita la richiesta però non mi è stata rilasciata una ricevuta. Adesso come farò a capire se la mia richiesta avrà un esito positivo? Deve rilasciare un documento la compagnia nel caso si attivi la procedura di reclamo, diciamo richiesta di rimborso, avvocato? Ma allora andiamo subito a rispondere alla questione del passeggero, perché lui ha scritto che il volo è stato cancellato, ecco. E la compagnia ha comunicato la cancellazione del volo. Quindi questa è un'ipotesi diversa dal recesso da parte del passeggero per cause a lui non imputabili. Quindi nel momento in cui la compagnia ha comunicato la cancellazione del volo, lui è diciamo tranquillo che non ha il problema di dimostrare il recesso, che non è suo ma è della compagnia, e quindi ha diritto ad avere rimborsato il prezzo del biglietto corrisposto, prezzo pieno senza nessuna decurtazione, e quindi se per caso non dovesse ricevere un ulteriore riscontro da parte della compagnia, reiteri la richiesta, eventualmente la compagnia ha una PEC, invia anche tramite l'associazione dei consumatori, se non c'era lui, una PEC, e una PEC con una richiesta formale. Mm-hmm. Nel caso in cui diverso dal passeggero che ha scritto questi ha l'esigenza di comunicare preventivamente, e la norma dice anche tempestivamente al più presto la propria volontà di recedere per causa non imputabile, allora noi consigliamo di cercare di avere comunque una prova, magari nell'immediatezza una mail, però se possibile inviare una PEC, carta canta sempre, tutto quello che può dimostrare la tempestiva comunicazione, perché molte volte bisogna dirlo purtroppo, poi le compagnie spesso si attaccano a questa impossibilità oggettiva del passeggero di dare la prova della comunicazione. Alla formalità, diciamo. Ecco, Lidia ci racconta. Diciamo, sì. La vecchia raccomandata può essere sempre fatta, magari mettendo che si anticipa a mezzo mail, per quello che può essere, diciamo, comunque certo. Garantirsi con queste forme che possono dare. Dico, alcune mail normali hanno anche la possibilità di attivare la prova della ricezione da parte del soggetto destinatario. Quindi se uno ha un tipo di mail che consente questo, anche una mail normale potrebbe avere la prova. Certo, però lei dice, consegna. Insomma, la cosa migliore sarebbe attivare la posta elettronica certificata, la PEC appunto, e poi far, magari addirittura far seguire una raccomandata di quelle vecchie, proprio fisiche, con la carta. Vedi? Con la carta, il francobollo e la ricevuta di ritorno che si fa in posta, così non possono dirci, guarda, che non gliel'abbiamo chiesto. No, guarda quante cose potremo fare nelle prossime settimane in cui avremo più tempo libero. Farci tutti l'identità digitale e farci tutti una bella PEC. Quindi io invito veramente a fare un po' un punto della situazione sulle mancanze nella nostra vita. Lidia ci racconta, Mauro, che ha un piccolo bed and breakfast di Milano, qui vicino, persone che hanno cancellato loro malgrado per il coronavirus la loro prenotazione e non erano in grado di proporre una data alternativa più avanti. Io ho rimborsato tutto quello che mi avevano pagato, quindi ci sono aziende piccole e grandi che sono magari per liquidità disponibile in grado di poterlo fare, altre meno, e quindi è chiaro che non per tutti si potrà attivare una prassi, un'iniziativa comune, per cui vedremo insomma chi dovrà essere sostenuto ed aiutato in questa fase e chi potrà essere in grado di venire incontro alla propria clientela in maniera autonoma. Allora, io voglio invece fare un passo indietro, tornare ai seggiolini, quindi richiamo in casa Maurizio Caprino, perché molti si domandano, scusate, io l'ho già acquistato il seggiolino, il dispositivo, che faccio? Sono ancora in tempo? Mi registro? È ancora in tempo? Si può chiedere il rimborso, chi ha provveduto prima del 20 febbraio ha diritto a questo rimborso del bonus, quindi sia assolutamente possibile. Certo. Il tassista sai che c'è anche un tassista che ci chiede se il tassista è obbligato a mettere il dispositivo, ma ci dimentichiamo pure i bambini dentro il taxi, adesso in due... No, così come, attenzione, che la norma vale soltanto per i conducenti residenti in Italia, per cui gli stranieri o anche gli italiani che risiedono all'estero non hanno obblighi di questo tipo. La norma è abbastanza chiara, per fortuna. I nonni che trasportano molto spesso i nipoti, Maurizio? Sì, hanno assolutamente l'obbligo, e non solo, sono, come si direbbe, cornuti e mazziati, perché non hanno diritto neanche a ottenere il bonus, nel senso che una delle regole del bonus è che spetta per un solo bambino, quindi c'è un solo dispositivo per bambino, quindi al limite devono chiedere in prestito poi il seggiolino, il dispositivo sì. Dai genitori. Allora, noi che l'abbiamo regalato a Marco Lombardo, io e Mauro, non prendiamo un bel niente, quindi non possiamo manco fare 50-50, 15 euro a testa per prendere un caffè. No, oppure do la ricevuta a Marco e lo può chiedere lui. Esatto, cioè vale il bambino, bisogna dare l'identità del bambino, quindi vale. Una volta chi sia che mette i soldi, un bambino, un dispositivo, questo è lo schema del bonus. Va bene, grazie Maurizio Caprino, grazie anche all'avvocato Carmelo Calì, avvocato, naturalmente non avremo esaurito sicuramente tutti i dubbi, quindi resti a disposizione, renda, per favore. Si renda reperibile nei prossimi giorni, un po' come tanti medici che devono esserlo loro malgrado.